6. C'è un grande silenzio quassù. Solo il vento, che soffia tra i vetri rotti e muove le ragnatele del soffitto. Grappatax sembra addormentato. Una testa magra, piccola come quella di un gatto, sbuca dalla coperta. La mano, che sapeva disegnare nell'aria gesti eleganti e irresistibili, è adagiata sul bracciolo della poltrona. Ai piedi, due scarpe da tennis sfondate. Sul tavolino, un servizio da tè e una scatoletta di sardine mezza aperta. Eccolo qui, l'uomo che ha fatto ridere tutto il mondo. Apre gli occhi, bistrati, gialli e brillanti. Proprio un vecchio gatto. «Allora è venuto», dice, con un filo di voce. «A quanto pare», rispondo un po' imbarazzato. «Alle mie spalle sento il tossicchiare di circostanza dei nani». «Lasciateci soli», dice Grappatax. «Rimaniamo soli». «Mi versi il tè», dice. «Io sono troppo debole per alzare la cucuma. È una malattia dei muscoli. Buffo, no? Per uno che entrava in scena con due salti mortali». «Io la trovo abbastanza bene». «Come no? Ieri sono stato dal medico e gli ho chiesto: dottore, mi dica la verità, potrò ancora stringere una donna tra le braccia?» «Certamente», ha risposto, «se ne trova una disposta a farsi seppellire con lei». «Questa battuta me la ricordo, la diceva Hepzibah». «Sì, quel fetente, era un comico malvagio, rubava le battute a tutti. Gli piacevano quelle macabre. Cambiò decine di spalle, nessuna resisteva con lui. Se sbagliavano, le schiaffeggiava davanti a tutti, anche in scena». «E Garau l'ha conosciuto?» «Oh sì, un vero satiro. Il suo contratto standard? 2 milioni e due ballerine grassottelle. Una volta cercò di violentare la bambola di un ventriloquo». «E Silvio Saponetta?» «Tremendo, avido di denaro. Si faceva pagare anche per gli autografi. Una sera all'uscita del teatro lo fermò la madre di una bambina invalida, in carrozzella. Gli disse che sua figlia avrebbe tanto voluto farsi fotografare in braccio a lui». 50.000 in braccio e 100.000 sulla carrozzella», rispose. «E Rigutini?» «Una checca perversa, un esibizionista. Adescava i pompieri incendiandosi le piume del costume. Odiava le donne a tal punto che interruppe le riprese di Rigutini e Rintintin quando seppe che Rintintin era una femmina». «Non si salvava nessuno?» «Oh sì», sorrise Grappatax. «È che io sono una linguaccia. Ce n'erano anche di dolcissimi. Napo Verex, ad esempio, dava metà di quel che guadagnava a un brefotrofio. È anche vero che ci aveva messo dentro i suoi 16 figli. Poi c'era Poldo Pelo, molto sensibile. Se qualcuno del pubblico non rideva, lo aspettava all'uscita, gli piangeva addosso finché quello non gli faceva una risata. Poi c'era Vaz, il grande Vaz. Faceva show ovunque. Quando entrava in un albergo, si fermava tutto. I camerieri rovesciavano le portate, i cuochi ribaltavano le pentole. Le femmes de chambre, invece di rifare i letti, ci si rotolavano sopra da ridere. Un tornado di gag e barzellette. Nessun albergo lo voleva più. Un giorno, durante una tournée, fu finalmente accettato da un grand hotel. Un albergo vecchio stile, frequentato da signori distinti e molto tranquilli. Nessuno rideva alle sue battute. Vaz ci provò per 3 giorni. Alla fine gli venne l'esaurimento nervoso e cercò di impiccarsi alla doccia. Il direttore gli spiegò che quello era un albergo per sordomuti, personale incluso. Ma il direttore non era sordomuto. No, non voleva far la figura dello scemo che rideva solo. È tutto vero, come la storia di MacPac. MacPac faccia di gomma? Proprio lui. In scena era uno spasso, ma fuori per lui era un inferno. In qualunque posto andasse, la gente, appena lo vedeva, rideva. Se muoveva un solo muscolo del vivo, era una catastrofe comica. Non riusciva più a far l'amore perché le partner, appena lui si eccitava un po', venivano prese dal convulso. Gli proibirono di andare ai funerali degli amici, andò in depressione e cercò di curarsi con l'analisi. Finché stava sul lettino e l'analista lo ascoltava di spalle, andò tutto bene. Ma una volta l'analista si girò e non riuscì più ad ascoltare una parola senza scompisciarsi. MacPac si suicidò guardandosi allo specchio per un'ora. Morì dal ridere. Non riuscirono nemmeno a chiudere la bara. Il prete si pisciò addosso durante il discorso funebre. Se Dio esiste, adesso sta ridendo forte. E Merrill? Dissero che si era ucciso per amore. Balle. Aveva dei problemi col partner. Ricordi il duo Attanasio Merrill? Ognuno dei due voleva sempre avere l'ultima battuta. Li vidi una volta a Las Vegas e lo show finì alle 3 di notte. Appena uno cercava di fare la chiusura, l'altro, trac, rilanciava. Finiva per esaurimento fisico. Qualche volta resisteva di più Attanasio, qualche volta la spuntava Merrill. Non ho mai visto due persone odiarsi così. Una sera in un locale l'avevano tirata in lungo fino alle 6 di mattina. Erano rimasti solo pochi spettatori, stremati. «E adesso, signori, vi salutiamo», disse Merrill. «Ma vista l'ora, non vi conviene tornare a casa, perché tra poco inizia il nostro show di domani». «Giusto, Merrill, ma non dovevi dire nostro, perché adesso sanno che ci sarai ancora tu e non torneranno». «Oh, Attanasio, non dire così. Lo so che sei il più bravo. Io non credo a quello che dice la gente, Attanasio». «Se questa battuta vi sembra vecchia, dovreste vedere la moglie di Merrill». «Se questa battuta vi sembra facile, dovreste provarci con la moglie di Attanasio». Attanasio fece la controscena e preparò una battuta di risposta, ma prima che aprisse bocca, Merrill aveva tirato fuori di tasca una pistola e si era sparato. Così ebbe l'ultima battuta per l'eternità. Non c'era nessuna donna di mezzo, solo gelosia professionale. «Che tempi!» «Bei tempi! Davamo l'anima su quel palco», sospirò Grapatax. Si soffiò il naso con un fazzolettino profumato. Abbandonò la testa sullo schienale della poltrona, guardando lontano. Mi sembrò che canticchiasse a bassa voce. «Vuoi che ti racconti tutto dall'inizio? Vuoi sapere perché ti ho fatto chiamare, Baol?» «Non sono più un Baol», dissi. «Un Baol resta Baol fino a 100 anni dopo morto», disse Grapatax. «Così come la pioggia non finisce quando cade. Baolian, libro terzo, verso 342. Conosco i vostri testi». «Leggende», dissi io. «Quando ero il principe dei comici, tanti anni fa», proseguì Grapatax, «sapevo ascoltare la celeste musica del riso. Potevano esserci 2000 persone in sala, ma io distinguevo le risate una a una, come strumenti diversi. Le grasse, le gutturali, le timide, le riflesse, le sbracate, le represse, le entusiaste, le amare. A volte sintonizzavo le mie battute su una sola di esse, la più sincera, la più cristallina. Oppure ne individuavo una incerta, di qualcuno che era venuto maldisposto, e la ascoltavo crescere, diventare più convinta, di spiegarsi. Ed era il mio trionfo. Avvertivo se qualcuno rideva in anticipo o in ritardo, se un altro rideva per la risata del vicino o perché travolto dalla vertigine del suo stesso riso. In questa varietà di risate, io immaginavo che tutti si liberassero delle loro paure, dei pregiudizi, dei luoghi comuni. Mi sentivo un medico ottimista, un mago onnipotente, un amico fidato. Era vanità? Era presunzione? Forse, ma era la mia vita. Poi vennero gli anni del regime. Sentii che qualcosa stava cambiando. La musica non era più così varia. Le risate presero ad assomigliarsi tutte. Bastava una semplice allusione perché tutti insieme pensassero la stessa cosa e ridessero nella stessa tonalità. E anche il sapore era diverso, come se ridessero con la bocca piena. Cercai di provocarli allora. Le cose di cui ridete, dicevo, possono uccidervi. Il riso è misterioso, disubbidiente conformista, socievole solitario, inquieto e stupido, razzista e rivelatore. Attenti al grande supermercato del riso, alle offerte speciali per tutti. Siate i comici di voi stessi, fatevi da soli il vostro humor quotidiano. E loro ridevano. Il regime fu presto informato del mio cambiamento. Mi corteggiarono, mi emarginarono, di nuovo mi corteggiarono. Fino a quella sera, quel 16 settembre, ricordi questa data, in cui conobbi il gran gerarca in persona. Quella sera la mia breve vita felice di comico finì. Le spiegherò dopo perché. Poco per volta mi allontanai dalla grande scena e persi il mio pubblico. Non vedendomi più, in passerelle circensi, mi credettero finito. Io ero sempre lo stesso, ma il fatto che recitassi in un piccolo teatro faceva credere che fossi superato. Una sera un ragazzo mi chiese l'autografo. Glielo diedi. «Ma come?» disse. «Lei non è Reuccio Baluccio?» «No, sono Grapatax». «Accidenti, l'avevo presa per Reuccio Baluccio, quello che fa il finocchio in televisione. Se l'avessi saputo non avrei riso tanto». Allora mi ritirai. Per qualche tempo mi cercarono, poi nessuno mi cercò più. Per 10 anni. 10 lunghi anni di silenzio. La voce di Grapatax era diventata un sussurro, un filo d'acqua. Si passò lentamente una mano sulla fronte, come una carezza. «Allora decisi di morire», sospirò. «Perché?» perché solo così mi avrebbero ricordato. E così fu. Uscì la falsa notizia della mia morte. Tornarono ad amarmi. Poster, vecchi brani riproposti, persino i miei brutti film. Parlarono di me, nuovamente. Fu bello all'inizio. Poi cominciarono a mentire. I preti pazzi dissero che ero un moralista apocalittico, il primo misticomico. Gli emergenti che ero divertimento puro, oltre le ideologie. Gli intellettuali mi usarono per le loro risse. I ribelli dissero che ero un ribelle. Nessuno disse mai cosa ero. E cosa era? Grapatax non rispose. Restò un minuto in silenzio, guardando i fondi della tazza di tè. Mi resi conto che quello che avevo fatto era servito solo a farmi morire due volte. Avrei sopportato anche questa beffa, anche queste menzogne. Ma pochi giorni fa mi hanno portato questo. Mi mostrò una pagina di giornale. C'era la foto di Grapatax giovane, insieme al gran gerarca, allora capelluto agli inizi della carriera. «Legga la didascalia», disse Grapatax. «Questa foto è stata scattata il 16 settembre di 20 anni fa, durante uno spettacolo del comico Grapatax, a cui era presente anche il gran gerarca, allora sottosegretario al varietà. Il gran gerarca si divertì molto alle battute del comico e al termine della serata i due si conobbero e diventarono grandi amici. A ricordo di quell'incontro, nel corso del premio dei premi, verrà riproposto il filmato di quella serata e verrà assegnato a Grapatax un premio alla memoria». «Capisce?» gridò quasi Grapatax. «Capisce? È vero o no che lei andò al tavolo del gerarca?» «È vero, ma litigammo ferocemente. Non diventai mai amico di quel fesso. Anzi, quella sera presi il coraggio a due mani e gliene dissi di tutti i colori. Da allora fui sul libro nero del regime. Non possono mentire così». «Ma se mandano in onda quel filmato, tutti vedranno cosa è successo veramente. Lei conosce bene i compositori di realtà. Hanno mezzi tecnici mostruosi. Pensa che il suo monologo sarà ricomposto?» «Ne sono sicuro, ma io so dov'è il filmato originale, la versione integrale. Lei deve trovarlo. Perché non esce da qui e racconta tutto? Perché non fa uno spettacolo clandestino? Sono malato e senza quel filmato non mi crederebbero». «Dov'è il filmato?» «All'inferno», disse Grapatax. Fischiai forte e triste e a lungo. «Allora non la posso aiutare», dissi. «Nessuno può entrare là dentro. Un mago Baol può. Io non lo sono più». «Davvero? Eppure ho smesso di parlare già da un pezzo». Era vero. Grapatax aveva gli occhi chiusi. Forse dormiva. Stavo ascoltando i suoi pensieri. C'ero caduto. Mi voltai e vidi Nanetti immobili in varie pose, come in un quadro spagnolo. Maramei si ritoccava il frontale. «Allora che si fa?» disse Raul. «Abbiamo solo 48 ore», aggiunse Nick, piangendo. «Tra due giorni, come ogni anno, al Palace Venetium ci sarà il premio dei premi. Tutte 80 le reti collegate, anche l'estero». Prima di andarmene mi voltai un attimo. Sotto la coperta Grapatax russava tranquillo. «Perché farlo?» «Verità. Solo un poco di verità, per un vecchio». «Non posso aiutarla», dissi. Scesi in fretta le scale, piene di gente accampata, cani addormentati e bambini sentinella.